je partirai demain avec mon cheval. Sono stufo di vedere del sangue sulle spalle di chi crede nell'orgoglio di un uomo arrugginito dall'odio quotidiano consumato di un partito. È un mare di parole che si perde nel mio sguardo, svegliato da un rumore di un motorino furbo. È un fiume che straripa, che acquista sempre forza sul suo percorso, aumenta, mi grida e mi tormenta e torna come ieri. Non seguire le illusioni, vibra con il corpo in un lago di emozioni e torna come ieri. In te vedo pleni luni, vibra con la mente in un lago di emozioni. Lasciando sul tappeto chi voleva solo bere. Ed ora su vicino ad un monte di freschezza, ma poi sempre più in basso in una valle di tristezza. Ed esplosa nell'aria con la gente che rideva, lasciandomi un ricordo che ancora mi saluta e torna come ieri. In te vedo pleni luni e vibra con la tua mente in un lago di emozioni.